Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Il crononauta entra nel guscio, seleziona la data, programma il suo viaggio a ritroso nel tempo. Dice Jovanotti che le mode non si inventano, accadono. I giovani sono sostanza liquida, oscillante, come i colori molli nella lava lampa. Sono passate mille generazioni, da rockabilly, punk ai cappelloni, i metallari, paninari, sorcini e ogni volta gli stessi casini. Perché i ragazzi non si fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere, quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione. Una generazione, una definizione, una decade, un neologismo per raccontarla tutta. Ma l'epoca in cui ci proietta il nostro rewind di definizioni ne ha due. Alternative, conflittuali, contrapposte, le rette parallele su cui viaggia il convoglio dei mitici anni Ottanta. Timberland contro Dr. Martens, Scott contro Chiodo, Panino contro Metallo. In un mondo tagliato a metà dai muri della guerra fredda, masturbato da consumo e denaro, esplode in Italia l'epoca delle cicale. Troppo impegnata a godersi il benessere da accorgersi che l'inverno sta arrivando, travestito da terzo millennio. Andiamo a caccia della musica che unisce e divide, che discrimina e definisce, anno dopo anno, canzone dopo canzone, in una raffica di scatti col flash. Mettetevi super comodi, perché inizia Polaroid. Istantanee di storia della musica. ...1983... Milano, Piazza del Liberty. La televisione è la verità, il social è la strada, la griff è il mi piace. Sei quello che indossi, in o out, perché non basta essere parte di qualcosa, devi essere qualcosa in più. Timberland, Moncler, Naio Leari, Best Company, Avirex, Uniform, Burlington, Gallo, Levis, Durango, Zundapp, Stone Island, Ray-Ban, Winchester, Simmons, Zaino Invicta e cintura El Charro. Più grossa è la fibbia, più sei Gallo di Dio. Lo stipendio medio di un italiano è di 350.000 lire. La divisa da paninaro ne costa 1.000.000. Ma se non ce l'hai, sei tagliato fuori dalla dolce vita. We are walking like in a dolce vita. This time we got it right. We're living like in a dolce vita. Gonna dream tonight. We are dancing like in a dolce vita. With lights and music on. Our love is made in the dolce vita. Nobody else than you. Intanto, nel regno del metallo. Roma. Studi televisivi Dear, oggi intitolati a Fabrizio Frizzi. Un nuovo imprenditore, Silvio Berlusconi, lancia una nuova televisione commerciale, Italia 1, con un nuovo programma, Drive-In, scritto da un nuovo autore strappato alla Rai e a Beppe Grillo, Antonio Ricci. Sul set un carrozzone di comici, sui testi parodia, satira, tormentoni e una strizzata d'occhio ai fenomeni giovanili. Tranquilli, tranquilli! Sempre io, Gran Gallo, l'unico paninaro professionista troppo giusto! Cucador, Spitinzia, Panozzo, Fiondare, Gallo, Gino, Sballo, Cotenna, Volpino. La tribù del panino non è solo occhiali, giacca e scarpe. È lingua viva, invenzione, slang. Una rivoluzione che contamina l'italiano e lo ribalta. E intanto respira l'America. Sogna di sposare Simon Le Bon e sceglie un inno generazionale, quello dei ragazzi selvaggi di Birmingham, i Wild Boys. Bad boys, bad boys, bad boys. Bad boys. Wild boys are calling on their way back quanto nel regno del metallo. Istantanee di storia della musica si ferma e torna tra poco. Solo su Radio 105. Questo è Polaroid. Istantanee di storia della musica. 1985, Los Angeles. Lo psicoterapeuta Arthur Janov, specializzato in disturbi mentali, passeggia nella sua costosa clinica di Santa Monica. Grazie ad alcuni pazienti famosi, tipo John Lennon e Yoko Ono, la sua terapia primaria è diventata celebre in tutto il mondo, rendendolo ricco. Arthur Janov ha una teoria: The Primal Scream, l'urlo primordiale. La radice del nostro disagio risale al trauma della nascita. Per combatterla, bisogna regredire all'infanzia, rivivere il dolore e sradicarlo alla base. Lacrime di paura, tears for fears, e un urlo per lasciarle andare. Shout! Shout, shout, I'm talking to you. Nel mondo del metallo. Oslo, Norvegia. Pal e Magne vogliono diventare delle pop star, ma hanno due problemi. Sono norvegesi e non hanno un cantante. Al concertino della scuola hanno conosciuto un ragazzo, Morten, che ha una bella voce, ma è fissato con la teologia e in più ha già un'altra band. Così, Pale e Magne vanno a Londra, affittano un monolocale di merda e puliscono i cessi di un pub per non crepare di fame. Nel tempo libero scrivono canzoni, ma nessuno li fa suonare, nessuno li vuole ascoltare, nessuno crede in loro. Eppure, cazzo, hanno in testa un paio di giri di tastiera che, cazzo, non possono non funzionare. È il 14 settembre, piove, Londra è impastata di foglie e fango. Pal alza il telefono, compone il prefisso internazionale e il numero che ha su un bigliettino sgualcito. Quando la voce dall'altro capo del filo dice "Hello?", Magne mette le dita sul synth, suona un riff, si ferma. Ci sono 30 infiniti secondi di silenzio. Poi la voce dall'altro lato del telefono dice semplicemente "Ok". È la voce di Morten. Sono nati gli aha. istantanee di storia della musica, si ferma e torna tra poco. Solo su Radio 105. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. 1986, da qualche parte nel mondo. La televisione è accesa, il tubo catodico spara fotoni traballanti. Sullo schermo si alternano righette colorate punteggiate da rauchi suoni digitali. La cassetta del Commodore 64 gira. Load, go, Ready Player One. Il gioco è squinzie, sfitinzie e paninari. Lo scopo è semplice. Un omino pixelato deve cercare di saltare la coda alla cassa per ficcarsi un panozzo e poi scappare in strada sulla sua Zundapp sorpassando gli altri paninari. Si compra in edicola per 14.000 lire. Oppure si copia sullo stereo di casa come una canzone qualunque. Tipo questa, dei Pet Shop Boys. Tempo, nel parallelo universo di zombie e catene, 1986, Berlino Ovest, Germania Est. Stare dietro il palloso muro a caccia di comunisti che scavalcano è fra le 100 cose più pallose del pianeta, pensa il caporale dell'esercito britannico Bruce Hammond Earlham, classe 1955. Fa freddo, il rancio fa schifo, non succede mai niente. Per fortuna che è venerdì, giorno di libera uscita. Così stasera lui e il suo commilitone Douglas, detto Bongo, potranno infilarsi in qualche birreria, cacciare in gola pinte da mezzo litro fino al coma e magari provarci con qualche bella tedescona tettona. Anzi, adesso hanno imparato anche una parola nuova, in tedesco. Geil, che tecnicamente vuol dire fico, ma da queste parti si usa anche per arrapato. Geil è proprio una parola strafiga. Bisognerebbe farci un disco. On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, Geil. The disc jockey's Geil. The disc jockey's Geil. I said the disc jockey's Geil. Geil. Everybody's Geil. Everybody's Geil. I said everybody's Geil. Geil. Geil. Everybody's Geil, Geil. Everybody's Geil, Geil. Everybody's Geil, Geil. Everybody's Geil, Geil. Everybody's Geil, Geil. Everybody's Geil, Geil. Intanto i fan del metallo. Francoforte, Germania Ovest. Sul lato destro della console c'è Sven Vatt, profeta della musica elettronica, guru della trance e della techno. Sul lato sinistro ci sono Michael Munzing e Luca Anzillotti, meglio conosciuti come gli Snap, inventori della commerciale, padri di Rhythm is a Dancer. Soltanto che al tempo in cui si svolge la nostra storia, nessuno dei tre è ancora un cazzo di nessuno. Quello che gira sui piatti, infatti, non è solo un disco, è un inizio. Ba ba ba ba. Dieses on you. 2019, Milano, Piazza del Liberty. Là dove c'era il bar Panino, là dove è nato tutto, oggi c'è un'elegante scalinata minimalista, un parallelepipedo di vetro trasparente, irrorato da una cascata luminosa. È la sede del primo Apple Store ufficiale su suolo italico, meta di pellegrinaggi, attrazione turistica, polo per curiosi, sfaccendati, stranieri. 38 anni dopo la fisionomia del mondo è cambiata, dal panozzo morsicato alla mela morsicata, segno distintivo di una civiltà alla frutta. Che sia più sana o prossima alla fine, decidetelo voi. Noi saremo sempre Wild Boys. Polaroid, istantanee di storia della musica, torna sabato prossimo. Sabato prossimo. Alle 19. Su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105. Ideato da Wender e Fabio Alisei. Voce Lucilla.